24 mattino di Alessandro Milan. 7:21 minuti, buongiorno, e chiudiamo la settimana di 24 mattino. Il nostro sondaggio di oggi parla dei cristiani sotto attacco nel mondo. Ebbene sì, voi dite, ma di che parlate? Beh, di un tema di cui parlano davvero in pochi. Ieri Angelo Panebianco in prima pagina del Corriere della Sera dice: nessuno se ne interessa, invece dovremmo occuparcene. Cristiani sotto attacco nel mondo, secondo voi sono violenze locali oppure si tratta di un vero e proprio scontro di civiltà? Ne parliamo alle 8:30, votate su radio24.it e come di consueto la lettura dei giornali. Legal Mail, la migliore posta elettronica certificata. È un prodotto InfoCert. Vi presenta In Primo Piano. Venerdì 12 novembre, finanziaria, napolitano e critico, così apre il Sole 24 Ore. È una faccia della politica che domina le prime pagine dei giornali, il Corriere della Sera, Berlusconi: non mi dimetterò mai. Repubblica, Berlusconi: io premier o il voto. La Stampa, Bossi: mediazione fallita. Sono alcuni titoli dei principali quotidiani, poi vedremo gli altri a capire che è stata la giornata della mediazione fallita, si può proprio dire, di Bossi con Fini. Ma la politica la vedremo più avanti, è il momento delle segnalazioni di diverso taglio. Io voglio iniziare con la vicenda di cronaca che ha tenuto per un mese sospeso Milano e non solo l'Italia. Ieri purtroppo si è conclusa malamente, sapete, come avete sentito nel GR, che è morto il tassista buono, come l'ha definito il Corriere della Sera, quel tassista che a Milano, dopo aver ucciso un cane, è sceso ed è stato picchiato selvaggiamente e dopo un mese di agonia è morto. Io vi segnalo sul Corriere della Sera, pagina 23, una toccante lettera di Franca Massari, vale a dire la mamma di Luca Massari. Il mio mese di lacrime, gli dicevo, torna a casa. Il mio Luca non ce l'ha fatta, ho pregato e pianto e adesso non ho più lacrime. Mercoledì sono andata nel santuario della Madonna della Bozzola, a Garlasco, il giorno della guarigione per i credenti, e ho supplicato la Vergine affinché si realizzasse il miracolo. Ma non c'è stato. Credo di essere morta anch'io. Andavo da Luca ogni giorno, lo abbracciavo, lo baciavo. Penso che mio figlio abbia iniziato a soffrire il giorno in cui ha investito il cane. Se non si fosse fermato non sarebbe stato lui. Luca amava gli animali. Quando gli è morto il pappagallino, ha pianto come un ragazzo e non è andato al lavoro. Non si può morire in questo modo barbaro. Sono stati 30 giorni che non auguro a nessuno, neppure al peggior nemico, e ho un rammarico che mi pesa come un macigno. Mio figlio avrebbe voluto donare gli organi, ma quando ci hanno comunicato che era morto, i medici hanno riferito che non si poteva più fare. Mio figlio è morto nel pieno della vita, con Patrizia. Aveva trovato l'amore ed era così felice che non gli pareva vero. Mi diceva sempre: «Mamma, questa mia felicità a volte mi spaventa. Ho paura che non possa durare». E invece se n'è andato lui, lasciando però a noi tutto l'amore che ha saputo regalarci, giorno dopo giorno, tutti i giorni. Ed è firmato Franca Massari, mamma di Luca Massari. Mi sembrava doveroso iniziare così la rassegna stampa. Dopodiché vi voglio segnalare, cari ascoltatori, io ho un mio eroe da oggi in Parlamento. Non so voi, è il mio eroe, si chiama Carmelo Lo Monte. È un deputato del Movimento per le Autonomie Alleati per il Sud, è immortalato dal Giornale a pagina 7 oggi. Il Giornale mette una foto di un'aula di Montecitorio, della Camera, vuota. Ma quando vi dico vuota, vuol dire vuota. Avete presente 630 deputati? Presente uno, Carmelo Lo Monte, Movimento per le Autonomie Alleati per il Sud. Certo, era lì a fare un'interpellanza parlamentare ed eroicamente ha fatto tutto il suo discorso, l'interpellanza parlamentare, parlando a nessuno. Era l'unico. Clima da tutti a casa, l'onorevole resta solo e parla ai banchi vuoti. È Paolo Bracalini che ne scrive a pagina 7 del Giornale: «Onorevoli colleghi», è iniziato così come si iniziano le interpellanze, solo che era tutta vuota l'aula di Montecitorio. Davvero è un po' eroico, dai, dover parlare a un'aula completamente vuota. Ieri, racconta Bracalini, c'era anche una classe delle medie in visita alla Camera ieri, e speriamo che non li abbiano portati in aula, altrimenti poi si dice che c'è l'antipolitica. Ebbene, a Montecitorio, racconta Bracalini, ormai è l'emblema di una situazione un po' così, che sta andando verso una strada ben precisa. A Montecitorio non si lavora neanche più, di fatto i deputati lavorano il mercoledì, molti arrivano la mattina del giorno stesso e ripartono a sera, il mercoledì. Ebbene, ma Carmelo Lo Monte, che dagli schermi, Paolo Bracalini racconta, dagli schermi sembrava parlasse tutta assorta ad un'aula che lo ascoltava, poi bastava andare in aula a vedere, fare una foto, parlava, ma l'aula di Montecitorio era vuota completamente. Eroico Carmelo Lo Monte, Movimento per le Autonomie, è il mio eroe del Parlamento. Ci fermiamo, pubblicità e meteo. In primo piano. La politica ormai sta consumando ogni giorno un passo verso una strada che è abbastanza certa, ma con i tempi della politica. Ieri c'è stata la mediazione o il tentativo di mediazione di Bossi Confini, che a detta di tutti i giornali è fallito. E tra l'altro bisogna leggere un po' di retroscena per capire quello che sarebbe successo. Ieri Carmelo Lo Papa, per esempio, su Repubblica, pagina 3, Gianfranco tenta Umberto, più facile un governo senza Silvio. Questo sarebbe andato in scena ieri nel colloquio. Se voi accettate un Berlusconi bis, dice Bossi a Fini, magari nel nuovo governo ci sarebbe spazio per un numero maggiore dei vostri ministri, anche con portafogli si può aprire un dialogo per la riforma parziale della legge elettorale, Silvio potrebbe sacrificare gli ex colonnelli di AN, La Russa, Gasparri. Tutto questo offre Bossi nell'ultima trattativa, forse non è ancora chiaro, a me non interessano le poltrone, ribatte Fini. Ma voi escludete davvero che un governo possa essere presieduto da qualcun altro? Non pensate anche voi che questo ciclo sia finito? Ha risposto Fini e Bossi, no, noi lo escludiamo. Se poi Berlusconi decidesse di fare un passo indietro, allora se ne potrebbe parlare, ma non mi sembra che così possa accadere. Cioè, si è adombrata la possibilità da parte di Bossi, secondo i rumors, secondo l'etroscena, di offrire in qualche modo un nuovo governo, sempre con Berlusconi, con più potere a Fini. Fini dice no, deve dimettersi Berlusconi. Tra l'altro tutti stanno guardando a chi è la persona che viene citata più spesso in questi giorni, vale a dire il ministro Tremonti, come possibile sostituto, cioè per continuare a rilanciare il governo, ma sostituendo Berlusconi con Tremonti. Su La Stampa, pagina 2, Amedeo La Mattina dice Tremonti stoppa l'ipotesi di sostituire Silvio. Chi per Bossi meglio di Tremonti potrebbe succedere a Berlusconi, ma è l'interessato che non ne vuole sentir parlare. Mai e poi mai, secondo La Stampa, Tremonti si presterebbe a una manovra contro Silvio, ed è quello che ha detto allo stesso Premier, lo ha detto anche a Bossi per rassicurarlo davanti alle voci maliziose che circolano nel PDL. Non sarà lui il bruto che accoltella Cesare. Anche se l'Unità invece lo mette a pagina 8, Giulio, che vendetta, dopo 6 anni sarebbe lui a sfrattare Berlusconi. Ma sono tutti, ripeto, rumors, voci. Quello che c'è di certo, se dobbiamo sentire, ieri Italo Bocchino a Anno Zero, lo sentito con le mie orecchie, avete sentito anche nel GR, ha detto lunedì quando tornerà Berlusconi, torna sabato dal G20 a Seul, poi domenica insomma c'è la pausa e lunedì troverà le lettere di dimissioni dei nostri 4 rappresentanti al governo dal governo stesso. Chi invece proprio non vuol sentir parlare di dimissioni, e lo racconto, gli inviati a Seul, è proprio Berlusconi. Dimissioni piuttosto la guerra civile. Non mi dimetterò mai, così sia La Stampa ma anche il Corriere della Sera, che lo mette come titolo di prima pagina. Berlusconi, non mi dimetterò mai. Così i cronisti hanno sentito, qualcuno giura dire, addirittura gridare al telefono Berlusconi dal 21esimo piano dell'hotel Hyatt, dall'altro capo del filo c'erano chi? I maggiorenti del Popolo della Libertà, perché per 3 volte Berlusconi, fino a quando Seul era 1:30 di notte, si è collegato telefonicamente con i vari Cicchitto, Quagliariello, Fitto, La Russa, Romani, Gelmini, che erano tutti riuniti per capire come era andata la mediazione, il tentativo di mediazione Bossi-Fini. Non mi dimetterò mai. E la contromossa di Berlusconi, ancora racconta Marco Galluzzo, sempre da Seul. Tra l'altro è curioso perché si sono spostati molti dei retroscenisti della politica, hanno seguito Berlusconi a Seul, cioè perché gente che di solito non si occupa del G20, ma a dimostrazione che sono a seguire Berlusconi a Seul, come Marco Galluzzo, come Ugo Magri della Stampa, perché seguono in realtà il momento della politica attuale. Ebbene, Marco Galluzzo racconta che Berlusconi ha detto non mi dimetterò mai e semmai mi devono sfiduciare in Parlamento. Questa è la situazione politica. Secondo Libero Pier, Fini e Rutelli pronte alle urne con Montezemolo. Cioè ci sarebbe stato anche l'altro giorno tra Fini, Casini e Rutelli il colloquio nel quale si è rinsaldato il patto tra i tre, il cosiddetto terzo polo. Se si andasse alle elezioni, il candidato premier sarebbe, secondo Libero, il presidente della Ferrari, Montezemolo. Ripeto, stiamo tutto alle chiacchiere, il Foglio fa l'analisi consueta, oggi affidata un'analisi e poi c'è anche un editoriale di Giuliano Ferrara, si sta come d'autunno, questo è il titolo dell'editoriale di Ferrara, ha cacciato Fini e ha perso la maggioranza, ma non basta, non è tutto, non è questione di pallottoliere, non è la cosa più grave, cacciando Fini invece di integrarlo, in attesa di un suo stemperamento e della propria anomalia istituzionale, il Cavaliere ha creato il competitore che mancava per la guida della destra bipolarista. E poi Ferrara dice: fanno male i video coi pedinamenti di Lele Mora che va a una festa ad Arcore accompagnato da belle ragazze. Fanno male non perché abbiano un qualche significato morale, ma perché dimostrano che il Cavaliere, non si sa come e non si sa bene perché, è diventato un uomo di Stato che non conta, che può essere messo alla berlina da gente che lo spia, che può essere tirato in ballo in storie urca scandalistiche da una escort spacciatrice già confidente dei carabinieri. E l'impressione è che anche la convocazione del Comitato Parlamentare sui Servizi sia solo un tentativo di umiliazione politica, ben congegnato, ben raccordato con tutto il resto. E Ferrara dice: può essere che usando in modo radicale del suo residio potere di interdizione, una volta tornato da Seul e resosi conto della verità profonda della situazione in cui si è cacciato, Berlusconi riesca a scompaginare ancora una volta. Però si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Si affaccia un partito di Piazzale Loreto, per adesso grottesco, ma domani chissà. E la fuga di ruffiani, profittatori, opportunisti, di cui già si era avuta qualche avvisaglia, potrebbe farsi chiassosa e disordinata, con ulteriori effetti autunnali. Il tempo non lavora per il CAV, così sembra. Questo Giuliano Ferrara a dire che sì, l'idea che passi il tempo, effettivamente. Oh, c'è anche oggi un Sonetti che voglio leggere di Iena, dopo tanto tempo, Riccardo Barenghi a pagina 3 della Stampa. Se fossi Berlusconi non mi dimetterei, se fossi Fini lo sfiducerei, se fossi Di Pietro urlerei, se fossi Bersani non saprei. Allora, come detto, c'è anche la vicenda che è riesplosa, sicuramente la citava anche Giuliano Ferrara, di Ruby, però oltre a Ruby si sta affiancando prepotentemente questa Perla, la ex assistente del senatore Pianetta, diventata poi una pentita, arrestata in un giro di spacciatori è diventata una pentita, che sta dicendo ogni giorno ne escono di nuove. Beh, intanto c'è la vicenda Ruby con la successiva puntata, no? Di quello che io vi dicevo ieri, cioè pensate mai che si riuscirà ad avere una verità vera, accertata sui fatti? No, tra questa PM Fiorillo e per esempio il ministro Maroni e quello che dicono da una parte e dall'altra su quello che avvenne quella sera. Maroni ha calpestato la legalità, Fiorillo accusa e il ministro Maroni l'ha querelata. Anna Maria Fiorillo, anche il Corriere con Alessandra Coppola e Luigi Ferrarella si chiede: ma quante dottoresse Anna Maria Fiorillo esistono? Questo a pagina 9. Almeno due. C'è il magistrato che adesso dice di essersi indignata, trova divertente la querela del ministro Maroni che definisce una ciliegina sulla torta e dice di prepararsi all'esilio a Ventotene, lamenta l'isolamento dorato di chi si sente trattata dai colleghi come se avesse un virus. E poi dice: ce l'ho coi colletti bianchi che non compaiono, non pagano e ottengono anche la promozione. Ma c'è anche la dottoressa Fiorillo che al suo capo il 29 ottobre in un atto ufficiale aveva scritto un diverso e meno drastico non ricordo, eppure si tratta della stessa persona. La versione di Fiorillo nelle dichiarazioni pubbliche di questi giorni è: voglio si sappia che non ho mai autorizzato l'affido a Nicole Minetti, l'affido di Ruby. Due settimane fa però, quando il 29 ottobre il PM deve firmare per il suo capo Monica Frediani un rapporto sulla notte, premette di ricostruirla come risulta dalla documentazione che allego, cioè quattro relazioni di polizia. Tra l'altro posso dire personalmente, ieri ho chiamato il procuratore generale Monica Frediani per capire se avesse qualcosa da dire per l'intervista di oggi. Ha detto: non ho nulla da dire, questo ve lo riferisco, non è un qualcosa che riguarda la procura, tenete fuori la procura generale da questa vicenda, che è una vicenda di un'iniziativa personale del magistrato Fiorillo. Sta di fatto che Maroni l'ha querelata, caso Ruby, Maroni querela la PM Fiorillo anche per La Stampa. È molto duro anche Filippo Facci oggi in prima pagina di Libero. Filippo Facci dice: "Toh! Sentivamo tutti l'irrinunciabile necessità di un nuovo magistrato che si mettesse a esternare. Stavamo appunto girandoci i pollici nella fremente attesa di un nuovo personaggetto mediatico in toga. E cucù, eccoti Anna Maria Fiorillo, PM del Tribunale dei Minori, brava, bis, benvenuta nel circo mediatico catodico." Una che scrive all'interno poi Facci nella prosecuzione del suo editoriale, una che ha esordito: "Non intendo raccontare niente, intendo solo fare un comunicato e non dirò più nient'altro", e poi ha parlato a Sky, Repubblica, Messaggero, Corriere della Sera, ANSA e così via. La notte di Ruby finisce a querele, questo è il titolo editoriale di Libero di Filippo Facci, mentre invece c'è tutta un'altra vicenda legata a Perla Genovesi, appunto l'ex assistente parlamentare del senatore Pianetta, che ogni giorno racconta, o meglio non è che racconta, ogni giorno escono stralci di verbali in cui racconta cose nuove, l'ultima è questa. E tra l'altro il Fatto Quotidiano ci ritorna a pagina 2 con Marco Lillo: "La russa è Di Pietro, segreti di Perla". No, ma questi segreti vi li tengo per dopo il traffico. In primo piano. "La russa è Di Pietro, segreti di Perla". Questo a pagina 2 del Fatto Quotidiano. Marco Lillo racconta appunto di Perla Genovesi, ex assistente del senatore Pianetta, poi arrestata in un giro di spacciatori presunti. Che allora, intanto i contatti tra Perla e Ignazio La Russa: due telefonate di un minuto, alcune all'una di notte, eccetera. Con La Russa che dice: "Contatti che non c'entrano con l'inchiesta, non hanno nulla a che fare con le storie che hanno coinvolto Perla Genovesi". E poi eccolo qui il verbale di Perla Genovesi che parla di Renato Brunetta. Dice: "Brunetta era quello che aveva amministrato i fondi del partito, come si dice, i fondi, quelli non dichiarati, il PM, i fondi neri, sì, di Forza Italia. Non me l'ha detto lui, sono cose però che sanno tutti. Lui amministrava i soldi per un periodo, ma scusi, il PM era amministratore del partito, cioè ufficialmente, ma non lo so se ufficialmente, so che lui vantava con me di aver insegnato l'economia a Berlusconi". Cioè Perla Genovesi dice che Brunetta, sapevano tutti, si sapeva che amministrava i fondi neri del partito, insomma una frase, un'accusa gravissima. E poi, ecco, dice: parlai con un amico che aveva rapporti col PDL, Riccardo Ossola, diceva che avevano delle fotografie su Di Pietro che volevano vendere, avevano trovato Di Pietro in una casa chiusa con delle ragazzine straniere minorenni, dove andava con l'avvocato e lui le voleva vendere, questo Ossola. E quindi io ho chiamato la segretaria di Berlusconi, chi? Marinella, che è la segretaria storica di Berlusconi ad Arcore, ma ho detto: "Guardate, lasciamo perdere, non voglio entrare in questa cosa". Di Pietro, sentito dal Fatto, si difende: "Non esiste alcuna foto imbarazzante, vi pare che se ci fosse una foto del genere i berlusconiani non l'avrebbero già usata sui loro giornali per attaccarmi". Insomma, Perla Genovesi parla anche sul Corriere: "Ero amica di Bondi, lui ascoltava i miei consigli, i candidati li decidevano i massoni". Ecco, c'è anche la massoneria. "I massoni comandavano le candidature, erano loro che gestivano i politici, c'erano quelli più grossi di questi massoni che erano in America, ma che comandavano anche in Italia. Incuriosita da questa cosa", dice e racconta sempre Perla Genovesi, "chiesi a un mio amico che scriveva per Bondi, sapevo che era un massone, tale Max Bruschi, gli chiesi informazioni su questi massoni, lui mi mandò qualche mail, poi quando lo incontrai mi spiegò alcune cose, lui considerava la mia chiesa, tra virgolette, addirittura l'origine della massoneria". Vabbè, e questa è Perla Genovesi, certo dichiarazioni che cominciano anche ad apparire sempre più sui giornali. A proposito dei giornali, c'è una vicenda che dà lo spunto a titolare in prima pagina sia il Giornale che Libero, è la vicenda che coinvolge Vittorio Feltri. Vittorio Feltri ieri è stato condannato in via definitiva dall'Ordine Nazionale dei Giornalisti a 3 mesi per 3 mesi non potrà più scrivere, percepire lo stipendio. Perché? Per i famosi articoli su Dino Boffola, ex direttore d'Avvenire. "Imbavagliato Feltri, divieto di scrivere per 3 mesi, questo è il titolo a tutta pagina del Giornale, alla faccia della libertà di stampa, l'Ordine toglie la penna a uno dei giornalisti più importanti e liberi. Il pretesto è il caso Boffo, ma la verità vogliono far tacere chi non canta nel loro coro". Mentre anche Libero: "Imbavagliato Feltri, L'ordine dei giornalisti vieta al nostro ex direttore di scrivere per 3 mesi. Tra l'altro Fabrizio D'Esposito sul Riformista dice, dopo anche l'intervista ieri molto critica di Feltri al Fatto Quotidiano, credo che Feltri lascerà il giornale ed è pronto a fondare un nuovo giornale. A dire la verità però, questa visione, questa vicenda di Feltri, che riguarda appunto la vicenda di Dino Boffo, è vissuta in modo completamente diverso da Avvenire, dove il direttore Marco Tarquinio, cioè colui che ha preso il posto di Dino Boffo, oggi fa un editoriale a pagina 2 molto duro. Ci può essere giustizia al 100%. Ci può essere giustizia. Ieri questo ha detto la sentenza definitiva dell'Ordine dei giornalisti sulle falsità contro Dino Boffo, volute da Vittorio Feltri. La scorrettezza professionale e deontologica commessa da Feltri è stata sanzionata. Alla fine neanche un'astensione, neanche un voto per la soluzione. 100% del Consiglio per il riconoscimento della colpa per l'autore che si era tardivamente e malamente scusato con Dino Boffo, grande giornalista e galantuomo. Questa corale sanzione del misfatto è un segnale salutare di assoluto rilievo. È pure una decisione eloquente al cospetto dell'intera opinione pubblica, perché rassicura i lettori, garantisce i nostri concittadini su una riaffermata capacità della nostra categoria giornalistica di sfuggire alle logiche corporative dell'autotutela e del cinismo politicante. Questo conta, tutto il resto sono chiacchiere. Non sono state giudicate le idee di qualcuno, ma i suoi atti. E la gravissima scorrettezza commessa dal direttore cronista Feltri è stata sancita. Chi come noi crede nella giustizia e non nella vendetta ne è lieto, e chi come noi crede in un'informazione onesta e libera, cioè rispettosa della verità dei fatti, della vita delle persone, può perfino azzardarsi a esserne orgoglioso. Molto netto e molto duro Marco Tarquinio, il direttore di Avvenire. Oh, io devo andare di corsa, ci sono tantissime segnalazioni, ma come dire, visto che vado di corsa ne segnalo una dalla Stampa, e cioè, oh, siamo poveri noi in Italia, guardate qua come siamo poveri, 10 milioni di italiani non pagano le tasse, eccoci qui, a pagina 11, 10,7 milioni di contribuenti non hanno pagato un centesimo di IRPEF, questi dati dei redditi 2009, 1 su 3 risulta completamente esente dall'imposta sui redditi. Non si capisce come facciano bene a vivere queste persone. Comunque in un anno quanta percentuale? Tutta queste persone, il 49, cioè il 50% dei contribuenti, 50%, dichiara redditi inferiori a 15.000 euro. Altro 40,61% tra 15 e 35.000 euro. Cioè, per riassumere, in Italia il 90% dei contribuenti dichiara meno di 35.000 euro. Io sono sulla soglia della ricchezza sfrenata, evidentemente. 10 milioni di italiani non pagano le tasse. Solo l'1% dichiara più di 100.000 euro. L'1% degli italiani. Siamo poverissimi o evasori? Vi lascio con questa domanda. Votate il sondaggio sui cristiani sotto attacco nel mondo, di questo oggi ci interroghiamo. Secondo voi sono violenze locali oppure sono segno di uno scontro di civiltà? Votate su radio24.it, ne parleremo più avanti dopo il GR 24 mattino. L'intervista. Alle 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Il protagonista della nostra intervista è l'onorevole Luca Barbareschi di Future Libertà. Buongiorno Barbareschi. Buongiorno, buongiorno a voi. Senta, ha sentito che Berlusconi dice non mi dimetterò mai. Ma io le chiedo, ma perché dovrebbe dimettersi? E perché voi lo chiedete? Ho sentito anche che minaccia la guerra civile, mi sembra. Qua sì, qualcuno dice piuttosto la guerra civile, poi bisognerà vedere se l'ha detto. Ma mi sembra che devo dimettersi perché non sono più, devo dire, non sono più gli accordi che c'erano per far andare avanti questo governo. Ha tradito, secondo me, questa è la mia opinione, il patto con gli elettori, non il futuro libertà, l'ha tradito lui, sia nel merito di alcune scelte di governo, sia nel merito di alcune scelte fatte dal punto di vista strategico, di ministri, di persone messe in alcuni posti e anche da un punto di vista etico, che secondo me ha un po' perso la barra di quello che deve essere l'onore e anche l'onere di fare il premier di un paese. E etico che vuol dire? Si riferisce alle vicende... No, Fire Man è proprio la cosa di Rubin, lo trovo irrilevante, trovo molto più scandaloso la Minetti, cioè questa idea che uno prende l'igienista mentale e mette in un posto, cioè questa idea di vecchia politica, quello è mio, insomma va cambiato tutto. Igienista dentale, forse ha detto mentale, no. Ho detto mentale, non me ne ero accorto, giuro. No. Dentale, vabbè. Ah, sono mentale, forse un igienista mentale. Senta, però dicono lui dice che sia Fini il traditore, cioè uno che è stato per 15 anni e poi si è accorto dopo 15 anni, no? Che guarda, forse io me ne ero accorto, forse prima, ma credo anche Fini. Abbiamo sperato che a questo giro, io sinceramente ci avevo già fatto un film su cosa sarebbe diventato il PDL, si chiamava Il Trasformista. Per fortuna è lì, pronto ad essere guardato da tutti gli italiani, se mai la RAI decidesse di andare in onda, cosa che non ho mai fatto, per vedere cosa avevo previsto già 8-9 anni fa, perché sapevo benissimo che non sarebbe mai diventato un partito il PDL, conoscendo Berlusconi, perché lui ha una visione aziendale, per cui la sua visione era Publitalia, non un rispetto, perché mi ero sempre speso affinché Alleanza Nazionale rimanesse, come ha fatto la Lega, un garante di quello che era un leader populista, popolare, che poteva anche servire a creare una forte centrodestra, ma con poi dopo forse un'evoluzione diversa. Magari credo che al di là di qualsiasi, che forse l'unica vera rivoluzione italiana oggi che si potrebbe fare è quella di far pagare le tasse a quei 10 milioni di italiani che le evadono, perché questa sarebbe forse la vera, il vero cambiamento. Allora si troverebbero le risorse per Pompei, per non Pompei, per tutto. Cioè questo è, secondo me, c'è un bellissimo film in questi giorni nelle sale, spero qualcuno abbia l'opportunità di vederlo, di Sean Penn, che si chiama Fair Game. Sì, certo. L'ho visto. Ecco, lei ha in mente l'ultima domanda che fa Sean Penn al pubblico, no? Agli studenti, dice: se io vi chiedo quali sono le 16 parole con cui Bush ha deciso di andare in guerra, voi non ve le ricordate, ma se vi chiedo il nome di mia moglie, che è diventato un argomento di gossip, sicuramente tutti lo ricordate. Sì, la vicenda dell'ex ambasciatore, della esatto. CIA che fu svelata. Allora, il problema vero è questo: noi facciamo le domande sbagliate e abbiamo le risposte sbagliate. Cioè, la vera domanda è: perché gli italiani non pagano più le tasse? Allora, forse perché non hanno servizi, è vero anche questo, però forse è anche il caso di cominciare a obbligare la gente a pagare le tasse. 10 milioni sono tanti. Sì, no, certo. Lei, a proposito, ha citato Bondi, però lei è uno dei pochi anche tra Futura e Libertà, che dice Bondi non ha colpe per quello che è successo. Non assolutamente. Primo, detesto, e in questo sono in completo disaccordo con Granata, che forse dovrebbe pesare le parole e pensare in generale. Cioè, noi dobbiamo fare una politica a lungo termine, il fatturato a breve sulla politica è facile, io insulto lei, ho una pagina sui giornali e poi due giorni dopo la gente se ne è dimenticata. La politica a lungo termine è analizzare i problemi. I problemi veri sono che Bondi, cioè, vuol dire, è crollato un pezzo di Domus Aurea con la Melandri, credo negli ultimi 50 anni o 100 anni, l'incuria assoluta del paese nei confronti di quello che è cultura, cinema, teatro, arte. Cioè, l'interesse non è colpa del ministro di turno, insomma. Ma cosa c'entra ministro? Ma su questo sono d'accordo. Ministro, lei domani avrebbe lo stesso problema legato alla teoria del caso, cioè piove da una parte, poi se crolli un pezzo di una colonna. Senta, io le devo fare l'ultima domanda. Feltri, prego. Non è mai stato tenero neanche con lei e con Fini, Futura Libertà. Feltri è stato condannato dall'ordine, per 3 mesi non potrà scrivere, neanche prendere lo stipendio per la vicenda Boffo. Lei come che guardi, ne pensa? Credo c'è un ordine dei giornalisti di cui non è stato condannato da dei Pasdaran comunisti pazzi o da dei, non so come dire, dalla banda della Magliana. Il suo stesso ordine, di cui lui peraltro ha deciso di non far parte, ma perché lui pensa probabilmente di essere fra gli dei, ha deciso di all'unanimità di punirlo. Ora, siccome io personalmente penso, ma lo dico non perché per me Feltri è irrilevante, ma il problema è un problema molto delicato sul giornalismo italiano, cioè se il giornalismo diventa privo di etica e privo di regole, rischia lo stesso problema che ha avuto la magistratura quando era diventata un po' troppo di parte, no? Legittimata. E così accade con il giornalismo. Cioè il giornalismo deve avere, ci sono delle regole, no? Tu hai il diritto di parlare di me se fai un'indagine, ma non hai diritto di spargere fango, perché questo è quello che un certo tipo di giornalista, di cui Felti peraltro è un capostipite, sa cosa mi fa ridere profondamente? Cosa? Quando c'era Nino Nutrizio, fondatore della Notte, sì, forse per i grandi più anziani storico, e quelli della metà se lo ricorderanno, i giovani sicuramente no, la Notte era considerato un giornale fascista stupido perché c'era lo strillo. Ora il giornalismo è diventato un giornalismo la Nino Nutrizio, cioè bisogna sbattere il mostro in prima pagina. Ne parlavo con Secchi l'altro giorno, mi diceva ma se non metti le notizie forti non compra. Io sono dell'idea che un giornalismo sano alla fine farà comprare di più, forse in maniera diversificata, proprio grazie all'iPad, a questi nuovi però sistemi. Di più. Ma di più, perché la gente vuole essere informata. Io mi fermo e la ringrazio Luca Barbareschi per essere stato con noi. Lei. Buona giornata, onorevole Luca Barbareschi e Future Libertà. E noi ci fermiamo per pubblicità e meteo, poi parliamo di un tema. Ieri Angelo Panebianco, secondo me giustamente, ha messo in editoriale di prima pagina del Corriere della Sera. Nessuno ne parla perché sembra una cosa che accade così tanti chilometri da noi. I cristiani che vengono perseguitati nel mondo. E questo, di questo parliamo. Vi chiediamo, è uno scontro di civiltà secondo voi o violenze locali? In Iraq succede quotidianamente. 800 24 00 24 tra poco. 24 mattino. Alle 8:34 minuti, eccoci qua a parlare dunque di cristiani. Cristiani sotto attacco nel mondo. Ieri Angelo Panebianco ha messo in prima pagina l'editoriale al Corriere della Sera a dire perché l'Occidente non si preoccupa di questo. È il tema del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? L'ultima vicenda in ordine di tempo che i giornali oggi raccontano è quella di Asia Bibi, 45 anni, in Pakistan, cristiana, già definita la Sakine cristiana, accusata e condannata a morte perché di fronte alla richiesta di convertirsi all'Islam ha detto: Cristo è morto sulla croce, cosa ha fatto invece Maometto per il bene del mondo? Questa domanda polemica, secondo un ONG cristiana, le è valsa l'accusa di blasfemia e la condanna a morte. Oggi la trovate un po' ovunque sui giornali. Ma poi in Iraq cosa succede? Lo voglio chiedere al primo dei nostri ospiti che saluto, è Monsignor Luis Sacco, è l'arcivescovo caldeo di Kirkuk in Iraq. Monsignor Sacco, buongiorno. Buongiorno. Che succede in Iraq da un po' di tempo? Ma da 10 giorni, cioè la domenica, non questa scorsa, hanno 8 persone fondamentaliste sono entrate nella chiesa e hanno cominciato a sparare la gente. Prima 2 preti e poi 58 sono morti e 67 sono feriti. Coloro che sono un po' salvati sono entrati nella sacrestia e chiuso la porta. E l'altro ieri nelle quartieri dove, a Baghdad, dove ci sono anche tanti cristiani, hanno attaccato 10 case dei cristiani. Dunque è una cosa incredibile, brutta, al nome della religione, al nome di Dio, di uccidere gente innocente. Io le chiedo, perché noi riduciamo tutto, e di questo magari mi scuso, a un brutale sondaggio, oggi chiediamo ai nostri ascoltatori se sia secondo voi uno scontro di civiltà oppure violenze locali che si possono giustificare in modo appunto locale, analizzando la situazione in varie parti del mondo. Secondo lei, ieri Angelo Panebianco sul Corriere della Sera, so che lei è all'estero quindi forse non l'avrà letto, ha parlato di un vero e proprio, di un qualcosa che se non è scontro di civiltà qualcosa gli assomiglia, perché altrimenti i fondamentalisti, se noi non reagiamo, ci osservano e ci prendono le misure, ci giudicano e potrebbero indurre a pensare tutto questo che siamo deboli o decadenti. È davvero così? Cioè vedere uno scontro frontale tra noi e loro? E appunto è giusto ciò che ha detto, e perché veramente fa paura, non solo in Iraq, dovunque, questo modo di pensare, questa lettura della religione è una cosa fuori del senso, fuori del tempo. Loro cercano versetti nel Corano stesso e usano versetti contro coloro che non sono musulmani. Ancora ci sono anche versetti in favore, ma c'è una una onda che cresce, sono crescendo questi movimenti fondamentalisti nel mondo arabo, ma anche un po' dappertutto. Bisogna fare tutti insieme per lottare contro questi queste tendenze fondamentaliste, formare un po', aiutare i musulmani a una lettura aperta del Corano, mettere i testi nel contesto. Io ho sentito un imam alla televisione Tele Lumière quattro giorni fa che diceva in una maniera molto logica che ci sono versetti che dipendono dalle circostanze. Allora tutto questo cambia, perché prendere tutto alla lettera e andare a uccidere la gente perché non sono musulmane? Ecco, su questa domanda, io questa domanda la vorrei girare. Intanto saluto altri due ospiti, padre Giulio Albanese. Giulio Albanese, buongiorno, ben ritrovato. Oggi è direttore della rivista Popolo e Missione, un padre combogliano, gira il mondo e conosce molte realtà diverse. Saluto anche Zedine Elzir, che è presidente dell'Unione Comunità Islamiche Italiane. Buongiorno e ben ritrovato, presidente. Buongiorno. Allora, ha sentito l'accusa di Monsignor Luis Sacco, che in Iraq dice c'è una persecuzione, ma non solo in Iraq, i cristiani sotto attacco in nome della religione. Certo, io guardi, prevengo la sua risposta, condanniamo tutte le violenze, però queste violenze, laddove vengono fatte da alcune persone, sono fatte in nome dell'Islam. Allora, c'è un problema oppure no? C'è un problema di violenza, e la realtà irachena lo dimostra. 10 anni fa il vicepresidente iracheno era un cristiano. Quando purtroppo non c'è la libertà, quando non c'è un Stato, quando non c'è la libertà della persona, e certamente le minoranze purtroppo lo sentano in primis. Abbiamo visto questi attacchi che vengono condannati, come si può dire, senza se, senza ma, ma purtroppo ci sono centinaia di migliaia di persone che sono morti per la causa di questa guerra ingiusta che è stata portata da parte nostra. Però non è una guerra di religione quella che è stata portata, è una guerra militare, se vuole. Attenzione, il presidente americano, quando ha portato questa guerra, ha detto: ho sognato il mio Dio che mi ha chiesto a me di andare a fare una crociata. Detto questo, certamente non è una guerra di religione, è guerra tra ignoranti, su questo non ho nessun dubbio. Guerra tra ignoranti, dice padre Albanese, che dobbiamo pensare di quello che avviene? Una guerra, uno scontro di civiltà oppure no? Non esageriamo. Senta, innanzitutto sento davvero la necessità e il bisogno istintivo di esprimere la mia solidarietà alle comunità cristiane tra il Tigre e l'Eufrate, in quella che chiamavamo Mesopotamia, ma direi più in generale in Medio Oriente, perché non v'è dubbio che in questo frangente, in questo primo segmento del terzo millennio, da quelle parti sono le comunità cristiane che pagano il prezzo più alto, e questo bisogna riconoscerlo, perché sono stati commessi dei gravi errori, e ritengo che le responsabilità in effetti siano per certi versi condivise. Non dimentichiamo una cosa, che quando nel 2003 l'amministrazione della Casa Bianca, guidata allora da George W. Bush, decise di iniziare la guerra in Iraq, i bombardamenti sistematici su Baghdad, l'invasione di questo paese per far fuori Saddam Hussein, Papa Giovanni Paolo II, ma direi più in generale tutta la diplomazia vaticana del tempo, penso all'allora Monsignor Toran, penso all'impegno del Cardinal Martino, la Santa Sede diceva: bisogna stare molto molto attenti, perché questa operazione militare creerà grandissimi problemi alle nostre comunità cristiane, e saranno proprio i cristiani a pagare il prezzo più alto. E così è stato. È stato lungimirante. Penso, a parte il fatto che non c'erano le armi di distruzione di massa, come dicevano gli americani, ma la verità è che oggi davvero i cristiani da quelle parti si trovano tra l'incudine e il martello. E ritengo che vi sia dietro un discorso di clash of civilization, di scontro tra le civiltà, non v'è dubbio, ma perché i cristiani sono visti, tra virgolette, anche se poi si tratta di popolazioni autoctone, cioè di chiese locali, pensa alla chiesa caldea, sono iracheni, sono persone che sono nate in quella terra, però vengono visti come filo occidentali. E le politiche dell'Occidente da quelle parti, lo sappiamo bene, sono viste un po' come il fumo negli occhi. L'identificazione cristiano uguale occidentale da parte ovviamente di chi li attacca. Monsignor Sacco, ieri Jean Benjamin Sleiman, che è libanese e arcivescovo di Baghdad latino, ha fatto capire con un ragionamento che sotto Saddam si stava meglio. Certo, erano più protetti, ci ha fatto sapere anche Zine El Zir che il vicepresidente, cioè Tarek Aziz, era cristiano, ma per questo si può dire meglio con Saddam? No, veramente no, perché il regime e anche oggi i governi dei paesi musulmani controllano i movimenti musulmani radicali perché hanno paura, non è perché vogliono proteggere i cristiani e altri. C'è che noi temiamo è la crescita dell'Islam politico e la formazione così stretta, estremista dei musulmani. E adesso non solo perché c'è guerra in Iraq, perché Bush ha fatto la guerra in Iraq, in Egitto e altrove, un po' dappertutto nel mondo musulmano c'è una tendenza radicale di un Islam purtroppo basata sul Corano. Dunque i musulmani devono leggere il Corano e fare una esegesi, capire il testo nel contesto e non fare la guerra a tutti coloro che non sono musulmani o devono convertirsi all'Islam. In Iraq è molto forte perché questi movimenti vengono da fuori, dall'Arabia Saudita, da Yemen, della Siria, della Giordania, dell'Egitto, ma anche in questi paesi ci sono problemi con i cristiani. È vero che noi siamo un po' assimilati agli americani e agli occidentali, ma c'è un problema per loro, per il cristianesimo. Quattro giorni fa una famiglia cristiana nella mia diocesi ha ricevuto una lettera dicendo: noi con voi non abbiamo problema, ma abbiamo problema con la religione cristiana. E dunque questo è molto pericoloso, è molto grave. Certo, identificare la persona con la sua appartenenza, col suo credo religioso. Fermiamoci per le informazioni sul traffico, poi voglio ripartire anche, tornare su questa vicenda, per esempio sul Pakistan, di questa donna condannata a morte per blasfemia. E voglio chiedere due cose ben precise sia a Padre Albanese ma anche a Zedine Zir. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Allora, io vorrei fare questa domanda a Ezzedine El Zir, che è, come detto, il presidente dell'Unione Comunità Islamiche Italiane, perché tralasciamo un po' la questione Iraq-America, visto che le violenze nei confronti dei cristiani avvengono dall'Indonesia all'India, al Pakistan, Vicino Oriente, Medio Oriente, in Africa, Africa subsahariana, eccetera. Non è che ci sono sempre gli americani di mezzo. Allora, questa vicenda di questa contadina in Pakistan, Asia Bibi, condannata a morte perché avrebbe detto, alla richiesta di convertirsi all'Islam, Cristo è morto sulla croce, cosa avrebbe fatto Maometto per il bene del mondo, in tono magari anche un po' polemico, blasfemia, condanna a morte. Ecco, e Zedine El Zir, è giusto una condanna a morte? Questo è un risultato di regimi che, dove non c'è spazio di libertà. E purtroppo prima si parlava che Islam politico, e questi regimi che usano l'Islam a uso politico per mantenere questo sistema del regime. Le chiedo, non vorrei essere provocatorio, ma io regimi che usano la Bibbia per fare le stesse cose non ne conosco al momento, al mondo. Nei confronti per fare le stesse cose Dio, nei confronti, nei confronti... Dio, per il momento non lo conosciamo. No, ringrazio Dio, ma io vorrei anche, forse li abbiamo conosciuti nel passato, ma fortunatamente ma ora che, no. Io vorrei che anche musulmani o regimi nel mondo non usano il nome della fede religiosa, o i criminali di non usare il nome della fede islamica. Anche io quello che voglio. Purtroppo invece noi dico noi perché io da 20 anni che vivo in Italia sono un cittadino italiano e mi considero della, italiano europeo, e quando parliamo di quella realtà e trattiamo con queste realtà, quando li pare a noi sono regimi democratici e quando non li pare a noi sono regimi dittatoriali. Noi dobbiamo essere chiari, usare non due pesi e due misure, questi regimi non sono democratici, non hanno lo spazio della libertà e quando li pare a loro tirano la questione di fede religiosa per condannare una persona che è quella parte debole nella società, è la questione della libertà, della democrazia. Perciò io vorrei tornare anche alla prima domanda, certamente io sono d'accordo con chi ha detto prima che non è prima era meglio di oggi, diciamo, non è meglio di oggi, per l'amor di Dio, solo purtroppo la strada che l'abbiamo seguita è sbagliatissima. La strada è sbagliata. Io vorrei, padre albanese, qual è la situazione? Perché insomma, uscendo dalla vicenda irachena, i cristiani un po' in tante parti del mondo sono, no? Lei li ha anche visti, lei gira per il mondo. Se me lo consente, sì, con l'occasione per ricordare che il 24 novembre si svolgerà a Roma una conferenza stampa in cui verrà presentato ufficialmente il rapporto sulla libertà religiosa realizzato dall'Aiuto alla Chiesa che Soffre, che è un'organizzazione che da anni svolge questo servizio di documentazione. E cosa ci diranno in questo? Cosa ci diranno? Con l'intento di dare voce a chi non ha voce. Ora, indubbiamente la libertà di esprimere il proprio sentimento religioso nel mondo è, purtroppo bisogna riconoscerlo. Vi sono molti paesi dove questo diritto è negato. A me quello che colpisce, glielo dico proprio con tutta la sincerità, è proprio l'uso strumentale, quello che dà fastidio, l'uso strumentale della religione. E per quanto concerne il mondo islamico, indubbiamente un problema che va affrontato, un grande tema, un nodo da sciogliere, riguarda il fatto che purtroppo ancora oggi la stragrande maggioranza dei paesi islamici sono paesi teocratici, in cui l'aspetto religioso, spirituale è intimamente connesso a quello politico. Mentre nel cristianesimo, proprio attraverso la predicazione di Nostro Signore, siamo riusciti a distinguere i due ambiti. Gesù dice nel Vangelo: date a Cesare quel che è di Cesare, date a Dio quel che è di Dio. Purtroppo nel mondo islamico la dimensione teocratica è ancora oggi prevalente, molto forte, prevalente. Però non dimentichiamo una cosa, che noi occidentali, e questo lo dico perché dobbiamo stare attenti a dividere lo scenario tra buoni e cattivi, noi purtroppo abbiamo questa tentazione che è un po' quella del manicheismo, no? Cioè anche il mondo cristiano, i paesi occidentali hanno le loro grandi, grandi responsabilità. A parte il fatto che noi per anni abbiamo finanziato movimenti fondamentalisti, penso ai talibani, ai tempi della guerra fredda, ma guardi che la stessa cosa è successa in Sudan. In Sudan negli anni '80 c'era un movimento politico fortissimo, quello dei Fratelli Repubblicani, guidati allora da un certo Mahmoud Mohamed Tah, il quale in sostanza predicava questo messaggio che a mio avviso era di grande apertura. Lui diceva: l'Islam la deve smettere di essere teocratico, quindi un conto è la politica, un conto è la religione. Bene, Tah è stato ucciso a metà degli anni '80, nell'85-86, dall'allora presidente sudanese Niameh, è stato eliminato. E la cosa interessante è che in quegli anni, eravamo durante la guerra fredda, il regime di Khartoum era alleato degli Stati Uniti, dei paesi occidentali. Ora voglio dire, noi purtroppo abbiamo delle grandi responsabilità, nel senso che purtroppo molte volte abbiamo dato una grande enfasi agli interessi economici nostri. Guardi, queste contraddizioni sono evidenti ancora oggi, perché il più grande alleato dell'Arabia Saudita, che non dimentichiamo è la culla del salafismo, del salafismo, dell'estremismo, siamo noi, inutile, Bin Laden è un saudita. Bene, il più grande alleato dell'Arabia Saudita sono gli Stati Uniti d'America. Allora, io devo concludere. Monsignor Sacco, mi può rispondere in maniera telegrafica? C'è più paura nella comunità cristiana oggi? Cioè, si vuole scappare, è vera questa cosa, dall'Iraq? Sì, sì, perché cioè non c'è futuro. Noi cerchiamo a rimanere lì, a incoraggiare la gente a rimanere, a testimoniare, ma il suo ospite musulmano ha parlato della libertà. Che libertà c'è? Libertà della religione vuol dire il culto, dunque dentro le chiese, ma la religione musulmana ha tutta la libertà della coscienza. Un musulmano non può diventare cristiano, un cristiano invece può diventare musulmano e faranno la festa. La libertà della coscienza non c'è e loro usano purtroppo un doppio linguaggio. Parlano della libertà, ma infatti della tolleranza. È una, parlare oggi della tolleranza è una cosa umile, è umiliare la dice, gente. Dunque, lei dice, cioè questo... non è separare lo stato della politica, cioè la religione della politica. Io mi devo... Mi devo però fermare qua, Monsignore, io la ringrazio, torneremo anche su questo tema, come ieri quello dell'eutanasia, perché sono temi molto interessanti, davvero. Io ringrazio tutti i miei ospiti, mi fermo, saluto Antonella Migliaccio in redazione, Peter Bescapè in regia e do la linea a Oscar Giannino. A lunedì!